Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Signorinette, le donne si guardino dal lasciar tracce di rossetto sulle schede, di e con Tiziana Avarista, Carmen Giardina, Anna Maria Loliva, Federica Marchettini, regia di Nuccio Siano. Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Gentile signora, sono una ragazza che ha perso tutta la famiglia sotto i bombardamenti. Da 4 anni mi trovo in questa casa di tolleranza, costretta dal bisogno. Ho contratto la sifilide. E posso garantirle che in queste case che non vengono controllate, il 95% delle ragazze hanno la stessa malattia. Molte di noi concepiscono, e se la gravidanza non viene interrotta, dopo pochi mesi veniamo gettate sul marciapiede e i nostri figli portati al brefotrofio. Questi sfruttatori sono più potenti del governo, hanno stanziato un capitale per convincere deputati e ministri, e sono certi che lei non riuscirà mai a farli chiudere. Qui è una cosa da morire. Non ci lasciano che il tempo di mangiare e di lavarci la faccia. Sono gli stupefacenti che ci fanno resistere. E sono le stesse tenutarie che ce li somministrano. Dite ai signori uomini che già che vedono necessarie le case chiuse, vi mandino le loro figlie, le loro sorelle, le loro mogli. Non siamo anche noi figlie, sorelle, mogli di qualcuno che piange? Non si dia per vinta, onorevole Pipì. Lotti. Lotti. E vinca. Signor Presidente e onorevoli colleghi, da quando ho presentato al Senato il progetto di legge per l'abolizione della regolamentazione della prostituzione, persone appartenenti a diversi strati sociali, di varia cultura ed incultura, mi hanno elargito lezioni, insulti, sarcasmi, minacce. Io so bene di aver sollevato un problema che per pudore, o ipocrisia, o indifferenza, l'opinione pubblica lasciava nell'oblio. Un fenomeno così complesso, infatti, investe non solo la salute pubblica, ma la morale, il diritto e l'economia. Che cosa fa in realtà lo Stato? Alcune prostitute sono tenute in regola nelle case, altre semplicemente tesserate, il che significa in tutte e due i casi che queste donne sono schiave col consenso della legge. La causa principale è quella economica, la miseria. Da questa miseria speculatori di tutte le gradazioni traggono profitti immensi. È un'associazione e chi ne tiene le fila è il traffico della cocaina. So bene che non è possibile cancellare da questa società la prostituzione, ma mi batto per un cambiamento sociale e culturale, così come non ammettiamo la sottomissione di una classe ad un'altra classe, così non possiamo ammettere la sottomissione della donna all'uomo. Articolo 35. La Repubblica tutela il lavoro. In tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Riconosce la libertà di emigrazione e tutela il lavoro italiano all'estero. Onorevoli colleghi, la nostra Carta Costituzionale sancisce il diritto di tutti i cittadini al lavoro. Ma nell'attesa che questa aspirazione possa diventare una realtà acquisita, noi dobbiamo assicurare a tutti la garanzia alla vita. Questo è il minimo che uno Stato debba garantire ai propri cittadini. Ma vengo al concreto. In Italia ci sono 2,5 milioni di disoccupati. In Italia 150 miliardi di lire vengono devolute alle spese militari e soltanto 52 miliardi all'assistenza e alla ricostruzione. E ancora, in questo paese, centinaia di migliaia di lavoratori sono privi di un ricovero decente e altrettanti costretti ad emigrare. Qualunque persona di buon senso capirebbe che in un'Italia così ridotta a miseria bisogna ridurre le spese militari e aumentare quelle per l'assistenza e ricostruzione. Io invece credo che noi non abbiamo preso la strada giusta se vogliamo veramente consolidare la nostra libertà. Articolo 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Bisogna mettersi in mente, onorevoli colleghi, che la scuola è una cosa seria. Il nostro paese non ha soltanto da rifare la sua economia distrutta. Deve far risorgere tanti valori negati o sepolti. Deve ricreare l'onestà e la libertà nelle coscienze. Non rimettiamo la scuola all'ultimo degli ultimi posti. In Italia la scuola non è mai stata libera. Si presenta come una povera scuoletta che divacchia, vuota di contenuto, priva di anima, piena di parole, di sapere enciclopedico, ove si forma un uomo colto ed erudito, sì, ma male educato. Perciò il nostro popolo è colto, è erudito, è sapiente, ma è uno dei popoli peggio educati della vita civile internazionale, perché noi non sappiamo formare la coscienza, né robustire il carattere, né dar vita all'intelligenza libera. È assurdo richiedere a un popolo di essere democratico prima di averlo educato ad essere tale. Dicevano che ero una ribelle, una sfrontata, che non temevo di dire quello che pensavo. Teresa l'anarchica. Mi hanno sempre chiamata così. Il migliore mi disse una volta, rosso in faccia, maledetta anarchica. Io gli risposi che per me una persona è un cittadino, non un governato, né da un sistema né da un partito. La mia legge la scelgo da me. Insieme a tutta la mia famiglia ero coinvolta nella lotta contro il fascismo. A 16 anni la mia prima missione e il mio primo arresto. Diventai una partigiana, una gappista. Da allora il mio nome è Kitty. Non è che mi piacesse poi così tanto andare in giro a far saltare bombe, ma ero in guerra. L'unica volta che ho messo il rossetto in litania è stato per mettere una bomba. Non mi riconosceva nessuno. Febbraio del 44. Dovevo raggiungere Roma da Firenze. Il mezzo sul quale viaggiavo fu mitragliato. L'autista colpito a morte. Fui condotta nella sede di un comando di polizia tedesca. Fui interrogata dall'SS. Non parlai. Decisero di fucilarmi la mattina seguente. Durante la notte I nazisti mi torturarono, mi picchiarono, mi fracassarono le ossa, le costole, mi ruppero i denti, mi violentarono, abusarono di me tutta la notte, mi sottrassi alla fucilazione di un gerarca fascista, mi disse che una così brava ragazza non poteva essere una partigiana. Le nostre vite si incrociarono per caso qualche anno più tardi, dopo la guerra. Testimoniai il suo favore per fargli avere una riduzione di pena. Fu emozionante rivederlo. Mi disse che era diventato antifascista. A me avevano ordinato di trasportare una radiotrasmittente da Treviso a Padova. Una radiotrasmittente che pesava moltissimo. Mi dissero, prendi soltanto le vie di campagna, non prendere la via principale, perché lì è pieno di posti di blocco di tedeschi e di fascisti. Io però temevo di fare tardi a scuola. E così presi comunque la via principale e chiesi un passaggio ai tedeschi, che caricarono sul camion me, la mia bicicletta e la valigia con la radiotrasmittente. Come pesa questa valigia? Ci sono dentro tutti i miei libri. Forse ero incosciente. Non pensavo quasi mai al pericolo. Essere incoscienti era una necessità. Il nostro comandante ci ordinò di pattugliare le strade del centro. Io assunsi il comando della mia zona. Volevo dimostrare di essere all'altezza della situazione. Così, quando venne buio, vidi un'ombra attraversare la piazza grande. Chiesi la parola d'ordine più volte. L'uomo non rispose. E allora tirai fuori la rivoltella e gliela puntai contro la spina. Non avevo mai ammazzato nessuno, ma ero pronta a farlo. L'uomo tremava, non diceva nulla. Cammina! Una volta arrivati dentro al comando, alla luce della stanza finalmente lo guardai in faccia. Era mio fratello. Era preoccupato per me. Nonostante il coprifuoco era riuscito a cercare. Sono cresciuta accanto a mia nonna e mia madre, che sono state delle donne oneste. E ho perso 3 dei miei fratelli nella prima guerra mondiale. Mario mi scriveva sempre dal fronte. Mia cara sorella rivoluzionaria in pace fondale. Come sposa sono stata al cuore di un uomo che fu l'apostolo della mia stessa idea, quella socialista. Ma ho anche conosciuto la miseria, la dura lotta di 20 anni contro la tirannia del fascismo. Nel 26 sono stata arrestata e condannata a 5 anni di confino. E lì che ho conosciuto l'orrore del carcere, accanto a criminali e prostitute, tradotta di prigione in prigione, di cellulare in cellulare, insieme a degli ergastolani. E quando raggiungevo la stazione, i passeggeri fissavano i loro occhi curiosi su di me. Allora uno di quei galeotti sollevava la mano in cenno di saluto e gridava: Elina Bellin! È una prigioniera politica! Al ritorno dal confino avrei potuto riconquistare il mio posto da insegnante, se solo avessi firmato il giuramento di fedeltà al regime fascista. Mi rifiutai. Così sono passata alla clandestinità. Sono stati anni distenti. Ma nel 1946 sono stata candidata alle elezioni. E sono stata una delle prime donne elette nell'Assemblea Costituente. Mi chiamo Teresa Noce. Ho iniziato a lavorare a 6 anni, facevo le consegne per un fornaio, a 8 sono stiratrice, a 11 sarta in un laboratorio e partecipo al mio primo sciopero. Mia madre diceva che ero di un orgoglio demoniaco e io gli rispondevo che quando non hai nulla devi avere almeno la fierezza. A 17 anni entro in Fiat dove imparo il lavoro di tornitrice. Mi piace lavorare con le mani, vedere ragazze intorno a me intente al mio stesso lavoro, che hanno i miei stessi problemi e la pensano come me. Decido di entrare a far parte del sindacato. A 21 anni, insieme a Palmiro Togliatti, fondo il Partito Comunista Italiano. A 26, sposo Luigi Longo. Sua madre madre non voleva. Diceva che ero brutta, povera e comunista. Durante la resistenza sono in Russia, Francia e Spagna. Qui dirigo le azioni di una brigata partigiana col nome di battaglia di Estella. Mi catturano. Vengo deportata nel lager di Ravensbrück, dove rimango per 2 anni. Ma sopravvivo. E una volta tornata in Italia, vengo eletta tra i membri della Costituente. Ah, ho avuto anche 3 bambini. Il secondo è morto a pochi mesi. 4 ottobre 1920. È una femmina! Pazienza, disse papà. Leonilde è un nome che dà forza. Come vuole lei? Leonilde. Ma nessuno la chiamerà mai così. Leonilde. Leonilde Iotti. L'ultima di 4 fratelli. L'ultima e l'unica. Avevano il terrore che morissi anch'io. Non potevo neanche andare in bicicletta. Reggio Emilia, quartiere operaio. Un gabinetto ogni 10 famiglie. L'acqua bisognava andare a prendere giù nel cortile e portarla su coi secchi. 2 secchi, papà. Un secchio io. Sono cresciuta in fretta. Molto in fretta io. Meglio dai preti che dai fascisti. Mio padre voleva che studiassi, voleva che sapessi. Perché loro sanno. E finché non sapremo anche noi, non potremo mai batterli. Non significava anche contadini, anche militanti, anche braccianti. Noi significava anche le donne. Alla cattolica mi presero ugualmente. Anche se ero figlia di concubini, anche se ero figlia di socialisti. Era il 1938, l'anno delle leggi razziali. Sognavo di fare il medico o l'ingegnere. Mi iscrissi a lettere perché era più facile trovare lavoro. Iniziavo a capire, iniziavo a sapere. Cominciai a frequentare un gruppo di antifascisti. Ma io che posso fare? Tante cose, te lo diranno i compagni. Intanto puoi portare dei volantini con la tua bicicletta. Non ti devi far fermare. Ma se dovesse succedere, una ragazza bella come te sa come non farsi perquisire. Io non mi sentivo né bella né ragazza. Speravo che la guerra finisse presto. La gioia della liberazione arrivò imponente. Ora tutto era da ricostruire. C'era molto da fare, poco per farlo. Mi chiedono di candidarmi come indipendente per le prime elezioni dell'Italia liberata. Avevo 26 anni. Venni eletta. Dovevamo ricostruire le case. Dovevamo ricostruire noi stessi. Avevamo accolto i nostri uomini sulle disastrate stazioni del Tiburtino e dell'Estiense. Loro tornavano mutilati, senza gambe, con le divise strappate, i volti scavati. E presto se ne sarebbero andati di nuovo. Ci avrebbero lasciato di nuovo da soli per andare a cercare lavoro all'estero. Restavano noi a crescere i bambini, a lavorare nelle fabbriche, nei campi. Una mattina con alcune volontarie ero alla stazione Termini a distribuire maglioni di lana, viveri per chi partiva. Non pensate a noi, alle nostre famiglie. Io lascio un bambino di pochi mesi, mia moglie non sa che dargli da mangiare. Era un siciliano, biondo, con gli occhi azzurri, assai giovane. E allora mi feci dare l'indirizzo della moglie. Risalì a lei e alle altre. E tutte che mi chiedevano, che volevano sapere dei loro mariti in Belgio e in Germania. Erano arrivate a stento alla prima elementare. E allora li aiutavamo con corsi popolari affinché potessero scrivere ai loro mariti. Quando entrai in Parlamento tra le fila della Democrazia Cristiana, ero conosciuta come quella che tutelava i diritti dei migranti, la Maria Federici, quella che metteva in contatto le vedove bianche coi mariti lontani. Avevo ideato un programma radiofonico che raggiungeva i migranti in ogni paese. Le donne, di qualsiasi età, di qualsiasi parte d'Italia, moglie, figlie, sorelle, parlavano davanti al microfono. Parlavano davanti al microfono nell'irreale silenzio di una stazione radiofonica. Parlavano davanti al microfono come se avessero il loro uomo di fronte ad ascoltare. Ma che ma senti, sono di Ian è Natale e io non ti sento. Han già fatto a parlare così. A come stia? Ti trattano buono? Dici che a Daio faccia tanta fredda. Ma molto marmo in un pacco, cui entra una macchia di lana che fatti ei, e pure una pezza di formaggio. Sì. Ma tu ogni meglio che non mi vera. Ma sono sciupata a sera, i vestiti mancano un butto. Ma quando finisce sto verno? Meno male che ci ha mandato i soldi, a così potremmo stare a calma. O perciò non stai buona, sena. Io grana, pare più grana della mia catina. Ora che quando un perciò non cresce, lo piglia a cogliente, o la piglia lo stesso treno che ha pigliato tu. Io non ve ne da sus, a chiarta, a queste tone. Ma raccomando, cubrecete, e mangio. Non ti ci ascoltano di nuovo. Te voglio bene. Noi vediamo sempre sul giornale un tipino originale se tu c'entra mandatore, nato dal cervello di un artista per la serie della rivista che nel mondo fa colore. E questa signorina ogni sabato mattina si presenta nella fresca sua bellezza. Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita. La sorte dei nostri figli. Italia ha avuto un cammino tortuoso e difficile. Per ben 20 volte in passato la richiesta del voto alle donne era stata presentata e per ben 20 volte era stata respinta. All'inizio, durante la campagna elettorale, sembrava che le donne fossero assenti, ma bastava guardare con un po' d'attenzione ed eccole apparire, dietro le finestre, nelle ultime file, ovunque si potesse ascoltare senza essere viste. La campagna elettorale dunque si faceva così, casa per casa. Si entrava nei cortili dei grandi palazzoni e si cominciava a parlare. Le donne si affacciavano alla finestra e ascoltavano. Gli uomini dicono, è inutile che facciano la riunione, tanto mia moglie vota come dico io. Non è vero per niente. Le donne imparano e sanno quello che devono fare. E la campagna elettorale è anche lotta contro l'ignoranza. È una campagna di alfabetizzazione delle elettrici meno istruite, perché per troppe donne votare è ancora un'operazione troppo difficile. Dobbiamo dirgli di non mettere il rossetto. Di non mettere il rossetto e le preferenze, perché potrebbero sbagliare. Ma soltanto il simbolo. E ce ne andiamo dalle loro case solo quando hanno capito tutto. Al mercato. Quando troviamo i prezzi esagerati o la merce di scarsa qualità, gli diciamo, la prima volta che andiamo a votare vi facciamo vedere noi, eh? No, voi ci andate come, mo? Io non ci vado e non vedo proprio niente. Su, andiamo, scansatevi, che devo servire. Ma che gli do ai ragazzini se non mi date la pasta? Che gli faccio a pranzo e a cena? I giochi di prestigio? Ecco, brava, fategli i giochi di prestigio. Sto disgraziato. Ma Sorangeli, qui finisce male, eh? Male, male per chi? Male per chi? Male per voi? Qui tutti i giorni la stessa storia, domani, domani, domani, e intanto lui si ingrassa e noi moriamo di fame. Ma Sorangeli, voi avete parlato troppo. E poi diciamo, non mi regalo la mia bocca! Sto disgraziato là! Ma mi capisce qui, eh? La madre di intervenire. è vero, possa fiorire l'agognato fidanzamento della figliola. La madre previdente sottopone la sua signorinetta ad un lucido e spassionato esame. Perché, care amiche, la donna italiana, si sa, generalmente ben proporzionata dalla vita in su, e spesso pecca fortemente dalla vita in giù e cerca di migliorare issandosi magari su tacchi altissimi, senza considerare che se se ne avvantaggia la sua statura, è vero, ci perde assai il portamento. Come dire, è meglio che vi rassegnate a restare piccole, perché a che vale l'apparenza d'un levriero quando la camminata poi è quella d'un'anatra zoppa. Ad esempio, voilà, ecco qua, 1,60 m, 80 kg, le gambe stortine, e allora io dico montagna e gonna campana, voilà, fatto, avanti la prossima. Che cosa abbiamo qui? Oh, due gambe affusolate, un busto da statua, e allora via, spiaggia e bikini, ma il reggiseno del bikini non avrà le dimensioni di un paio di occhiali da sole, vero tesoro? La ragazza protesta. No, ho soltanto detto che un bikini per essere un carina. Ricorda questo, l'immodestia si attrae i mosconi, mette in fuga i partiti seri. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata, oh mamma mia, ci vuole la fidanzata. Io vorrei quella cosa tanto cara, deliziosa, che fa il cuore sospiroso, che fa il cuore palpitare. È una cosa, sai che cosa, che di notte misteriosa fa il mio cuore sospiroso, fa il mio cuore trepidare di passione. La prima volta che sono andata a votare per me è stata un'emozione fortissima, e ricordo che il mio seggio era in un giardino dove tantissimi bambini giocavano e correvano tra i grandi, che in fila per ore e ore aspettavano pazientemente il loro turno. A me tremavano le mani, non che non avessi una mia idea, ma confesso che quando entrai nella cabina elettorale mi venne come l'impulso di fuggire. Avevo paura di sbagliare a mettere il voto. Tutto quello che è venuto dopo per me è stata una graduale scoperta della bellezza della vita. Tornare a scuola, a leggere i libri, uscire con le amiche. E poi lì quel giorno ho conosciuto Mario e tra un anno ci sposeremo. Stringa forte sul suo cuore innamorata, sì. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata. Gli uomini hanno bisogno dei nostri consigli. E come in casa quando c'è da fare la spesa, il marito ascolta la moglie? E anche lo Stato ci deve ascoltare, perché noi operaie abbiamo bisogno di un asilo in fabbrica, perché non abbiamo i soldi per pagare chi ci guarda i bambini. Per questo sono andata a votare, e all'uscita dal seggio insieme a Peppino sono andata a festeggiare in osteria! Perché uscivamo dalla guerra, dalla paura, dal buio, ma soprattutto perché io ero incinta di 9 mesi, avevo una pancia enorme e quando mi hanno visto al seggio quasi quasi non mi volevano far entrare. Quelli non avevano mai visto una donna votare, figuriamoci una con la pancia di 9 mesi. Ma io sono entrata, ho votato, ho preso la mia scheda, l'ho messa dentro l'urna stando attenta a non sporcarla di rossetto e sono svenuta. Mi hanno portato all'ospedale. Oh mamma mia. E quella sera, proprio quella sera, è nato libero. Sì. L'abbiamo chiamato così perché era come mi ero sentita io quel giorno. Libera. Io non so che cosa significa sentire la voce di un uomo in casa. Non ci sono abituata. Quando ero piccola vedevo le mie amiche che chiamavano il papà, che si sedevano sulle sue ginocchia e gli toccavano la barba. Oddio, come mi sembrava strano. Dopo mio padre, mia madre non ha conosciuto altri uomini. Lui l'ha lasciata per andare a vivere con un'altra e con questa ci ha fatto altre due figlie. Quando è andato via di casa, mia madre era ancora giovane, portava i capelli neri, raccolti, e la sua bocca rossa e carnosa spiccava ancora di più sul suo ovale bianco. Era ancora bella mia madre. Io ero piccola, gracile. Mia sorella più grande di me andava a scuola e faceva le consegne per lei. Lei cuciva giorno e notte, giorno e notte, giorno e notte. Non si fermava mai. Ma i soldi erano sempre pochi, non bastavano a comprare da mangiare, a pagare la pigione. Durante la guerra dovevo impegnare la macchina da cucire. Allora lei andò a fare le pulizie in una casa di appuntamenti e si attirò le attenzioni della gente, le parole velenose delle comari. Ma lei camminava sempre fiera, testa alta, col suo passo svelto, chiusa nel suo cappottino verde scuro. E quando sorridendo mi dava i soldi per andare dal fornaio, io le stringevo le mani rovinate. Lavora, figlia mia. Trovati una fatica. Non rinunciare mai alla tua indipendenza. Il lavoro è dignità e ti dà la forza di andare avanti, di resistere. Oggi io voto per lei. Per mia madre, per mia sorella, per le donne che lavorano e che non hanno diritti, per quelle che non lavorano e che non hanno diritti, per chi come me è cresciuta solo con la voce di sua madre e per me il suo suono è la libertà. La scarpa, ai, che non mi fa tanto tanto male, hai fatto il vento, ho fatto il giù, giro di rigiro, sembro bel sedù, con forza te la bontà. Al secco, meglio andare senza rossino sulle labbra, al secco, meglio andare senza rossino sulle labbra, al secco, meglio andare senza rossino sulle labbra, al secco, perché la cara deve essere incollata e non deve avere alcun segno di riconoscimento. Noi dopo per bagnare con le labbra e le mura incollare, dobbiamo stare attenti, la voti 10.709.423. Mamma, abbiamo vinto. Molto bene. Vota non fa mai. Repubblica, voti 12.718.019. Da oggi l'Italia è repubblicana. Oddio, la mamma. Che cosa? La mamma si sente male. La mamma? Vieni. Consiglio dei ministri. Andiamo, generale. La proclamazione dei risultati del referendum fatto a termine di legge dalla Suprema Corte di Cassazione e che assicura la maggioranza alla Repubblica. Andiamo. Non piangere, papà, non tutto è perduto. Bene, eccellenza. Sono che ride pure. Chi ha il coraggio di ridere? Viva il re! E viva! Canaglie. Vieni, caro, vieni. Non si presti a provocazione di elementi faziosi. Nella sicurezza che nessuno potrà più strappargli la vittoria. La che facciamo? Ce ne dobbiamo andare. La consultazione per sì, sì, mangiamo e poi ce ne andiamo. Il governo rimane interamente garante. Sulle rivendicazioni delle donne. Noi non sappiamo cosa farcene dei fiori. Noi vogliamo dimostrare che abbiamo doti utili alla politica. La nostra presenza nell'assemblea suscita soltanto curiosità. E i nostri colleghi sono troppo galanti. Troppo. Nei corridoi del Parlamento ci accolgono con inchini e baciamani. Noi vorremmo che si facesse più attenzione ai nostri titoli di studio, piuttosto che ai nostri vestiti. Ai nostri curricula, piuttosto che al colore dei nostri capelli. Veniamo da tutta Italia. Siamo in maggioranza sposate e abbiamo figli. Abbiamo tutte studiato. Quasi tutte laureate. Molte insegnanti. Una sindacalista, una casalinga, una giornalista. Tutte piuttosto giovani. Alcune giovanissime. Come Angela Minella, di 26 anni. E Teresa Mattei, di 25. Abbiamo conquistato il nostro diritto alla cittadinanza, partecipando attivamente alla resistenza. E pagando spesso un caro prezzo per le nostre scelte. Come Angela Rotelli, che trattò lo scambio di ostaggi e salvò la vita a molti partigiani. O Adele Bey, condannata a 18 anni di carcere per antifascismo. O Rita Montagnano, che ha trascorso la maggior parte della sua vita in esilio. Elettra Pollastrini, costretta ai lavori forzati in Germania. E tuttavia, quando una delle deputate, Teresa Mattei, volle discutere di parità in Parlamento, incontrando in transatlantico un collega maschio, questi le chiese: ma lei lo sa che certe donne non ragionano in alcuni giorni del mese? E lei lo sa, fu la risposta pronta della Mattei, che certi uomini non ragionano mai? Ma non è onorevole, che fa? Ma come che fa? Ma che deve da fa? Ma che ti credi che essere onorevole vuol dire fare la mandare come fai te? Uno quando è onorevole basta. Però baccaglia. Ecco, baccaglia. Baccaglia per noi personalmente. Tu fatti conto, devi dire una cosa, la puoi dire, la dici a lei, lei va alla camera. Assor cosa, ma che te pare? Assor cosetto, ma davvero, davvero, capito? Tu poi ne risenti i benefici, ma è così a notare. Ah, sor Angelì, quanto vi invito, io c'ho uno che mi è così antipatico, a me... Dico però, bisogna saperle dire le cose, eh? Perché le manca la lingua per me? No, non è questo. Insomma, il partito nostro le deve saper dire le cose, ci deve avere in programma. Ma lo fanno subito, che ci mettiamo? Eccolo qua. Adesso è una cosa equa, una cosa... Sì, una cosa giusta. Che non faccia le fesserie che stanno a parlare. Sì, ma a me mi sa che non lo so fare, onorevole. Colleghi consultori, tutti oggi siamo preoccupati dalla catastrofe morale che ha accompagnato la rovina materiale del nostro paese. È vero, la guerra porta sempre con sé devastazioni morali. Ma credo che mai nel passato se ne sia verificata una così spaventosa nella distruzione di tanta innocenza, di tanta promessa, di una nuova, migliore generazione. Allargate le funzioni degli enti di assistenza e della maternità e infanzia. Fateci essere madri di chi mai di un sorriso di madre ha goduto. Il fascismo ha tentato di abbrutirci considerandoci unicamente come fattrici di servi e di sgherri. La nostra lotta contro la tirannide, tramontata nel fango e nel sangue, ha avuto un movente eminentemente morale, poiché la malavita politica che faceva mostra di sé nelle adunate oceaniche fatalmente sboccava nella malavita privata. Per la nostra stessa dignità di donne, noi siamo contro la tirannide di ieri come contro qualunque possibile ritorno a una tirannide di domani. Per la nostra stessa dignità di donne, noi siamo contro la tirannide di ieri come contro qualunque possibile ritorno a una tirannide di domani. Bernardini, Maria Federici e Nilde Iotti entrano a far parte della commissione dei 75, incaricata di formulare le proposte di Costituzione. Sostengono pari opportunità per l'uomo e per la donna in ambito familiare, concrete misure per la tutela della maternità e dei figli nati fuori dal matrimonio, parità dei salari e pari opportunità nell'accesso a tutte le professioni, e l'abolizione della regola delle nozioni della prostituzione. Gentile signora, sono una ragazza. Da 4 anni mi trovo in queste case di tolleranza spinte dal bisogno. Qui ho contratto la sifilide. Posso garantirle che in queste case che posso garantirle che in queste case che non vengono controllate. Il 95% delle ragazze sono spesso non concepiscono e se la gravidanza gentile signora dopo pochi sono ragazze che ha perso tutta la famiglia e i nostri figli portati da 4 anni mi trovo in questa casa questi sfruttatori sono stati tanti del genere ho contratto hanno stanziato un cacciato e posso garantire che in queste case che sono gli stessi dettagli e sono il 95% delle ragazze detti non si riuscirà mai a farlo che ciò che vedono necessario le case chiuse vi mandino le loro figlie, le loro sorelle, le loro mogli. Non siamo anche noi figlie, sorelle, mogli di qualcuno che piange? Non si dia per vinta, onorevole Merlin. Lotti e vinca. Lei nella sua attività politica è stato uno dei 70 della Costituzione, che hanno preparato la Costituzione. Le pare che 75. Le pare che la Costituzione sia un atto perfetto? No, quasi direi, perché ci potrà essere qualche cosa che io non posso giudicare. Lei che cosa rivedrebbe adesso? Io non rivedrei proprio niente, cercherei di applicarla perché non è applicata. Lo spettacolo Signorinette, le donne si guardino dal lasciar tracce di rossetto sulle schede, di e con Tiziana Avarista, Carmen Giardina, Anna Maria L'Oliva, Federica Marchettini, regia di Nuccio Siano. L'agenda della settimana con Alessandro Cavoli per parlare di River Art 20, No Panic, l'esposizione a Rieti sul fiume Velino dal 27 ottobre al 15 novembre 2020. Alessandro, ben trovato. Ciao Federico, ben trovato a te, piacere di risentirti. Raccontaci un po' di questo progetto. Il progetto, diciamo, ha due sezioni. Una è dedicata a delle installazioni sul fiume, sull'acqua del fiume Velino che attraversa il centro della città di Rieti, e la seconda sezione è invece dedicata alla musica con cantautori che vengono da diverse parti d'Europa e si riuniscono a Rieti portando la loro musica. Tutto il progetto nasce in relazione agli europei di atletica leggera a Lievi, dovevano tenersi a Rieti a luglio di quest'anno, che sono stati invece spostati al prossimo anno 2021, però il bando regionale è stato vinto e quindi si è deciso di comunque di procedere. Quindi per ora sono le installazioni sul fiume e siamo in attesa di trovare delle date per il festival musicale. Le installazioni quindi ispirate alla pratica leggera, sono 3 installazioni visuali che galleggiano sulla parte centrale del fiume Velino. I quadri sono un quadro che si intitola I corridori di Robert Delaunay e un altro Ritmo di Sonia Delaunay, che era la moglie Delaunay, un altro di Gerardo Dottori. Questi quadri vengono, diciamo, i primi due sono in relazione alle Olimpiadi che si tennero a Parigi nel 1924, mentre Dottori produce questa tela che è stata vedere con l'asta nel 1936. Diciamo che la pittura scopre lo sport nella prima metà del Novecento e gli stadi cominciano ad essere pieni di gente, c'è molta attenzione, un'attenzione crescente nei confronti dello sport, le Olimpiadi nascono nel 1896, quindi diciamo sono passati 25 anni dalla prima Olimpiadi, diciamo, la quarta e quinta Olimpiadi, insomma, più o meno. Questa attenzione crescente nei confronti dell'atletica, del dinamismo, naturalmente interessa molti pittori, in particolar modo Centro Italia dei Futuristi, ma anche i coniugi della Lega, che in realtà, diciamo, sono contigui al futurismo, insomma, al futurismo. la visibilità di questi quadri è da due ponti che attraversano il fiume nella parte centrale, quindi il visitatore di questo museo può guardare i quadri dall'alto, in realtà ce ne stanno, ce n'è uno che può essere guardato anche dal lungo fiume, quindi da due prospettive di quell'immagine dell'Ore. Una curiosità anche rispetto al mondo artistico nella dimensione di Rieti, gli artisti come sono in rapporto con la città? Sono abbastanza complessi, poi dipende dagli artisti, insomma ci sono degli artisti che lavorano più fuori, altri che sono più legati naturalmente al territorio. Rieti non è una città che fa moltissimo per gli spettacoli dal vivo, quindi diciamo il rapporto se vogliamo anche un po' conflittuale. Come Teatro di Codogno sono un paio d'anni che collaboriamo col comune organizzando degli spettacoli per i bambini verso il Natale, adesso questo progetto qua. Certamente siamo nella provincia italiana, una provincia che dormite come molte delle province italiane, però ci sono, insomma, come ovunque, poi ogni tanto saltano fuori delle iniziative interessanti e quindi questo permette anche alle persone che vivono nel luogo di essere attive, di essere in campo del luogo, insomma, dove abitano. C'è moltissimo lavoro, è una città che investe relativamente sulla cultura o comunque una cultura che alla fine viene spesso veicolata dai privati che organizzano magari altri concerti o spettacoli, per quattro strutture abbastanza grandi che ci sono. E poi ogni tanto certo, il comune diciamo, canonicamente organizza delle cose, poi fortunatamente negli ultimi anni si è trovata questa apertura, la mostra Acqua del Fiume, che tutto sommato ha un forte carattere innovativo, è stata promossa, insomma sembra che la cosa stia funzionando molto bene, le persone reagiscono con stupore, perché davvero è anche un'innovazione, direi, anche in campo internazionale, di presentare l'arte in questo modo, parliamo di tempo grandi, dimensioni 3x10 o 5x6, con delle cose enormi, anche la magia di vederle galleggiare, un po' sentito, insomma, molto stupore. E questo, al di là del progetto innovativo, perché spesso abbiamo delle, magari delle buone idee, è difficile farle veicolare, poi naturalmente parliamo di comuni, essenzialmente, dall'altro dal comune alla regione, questo è un progetto finanziato dalla regione e dal comune. Quando succede questo qualche cosa comincia a muoversi, quello che dico sempre è che comunque veramente l'incisività dell'azione culturale, possiamo dirlo, una brutta parola, è data dalla continuità, dal tempo, cioè non è una singola azione o due che portano poi effettivamente dei cambiamenti, è una pluralità di azioni e una costante nel tempo che determina effettivamente l'efficacia dell'azione che può fare un comune, ma direi anche l'efficacia degli artisti, perché poi alla fine magari lavori all'estero, noi abbiamo tanti progetti che facciamo all'estero, una rete europea con altri soggetti, e poi magari a Rieti città lavoriamo poco, ma insomma negli ultimi anni qualche cosa si sta muovendo. I riferimenti web per saperne di più nel dettaglio? La pagina sia Instagram che Facebook di Teatro di Codogno, e là si trovano le informazioni sulla mostra, ci sono i quadri, ci sono alcuni brevi video, e insomma è diciamo, un arco di informazioni che naturalmente stiamo allargando giorno per giorno. River Art 20, No Panic, l'esposizione a Rieti sul fiume Velino dal 27 ottobre al 15 novembre 2020, un saluto e un ringraziamento all'ideatore e l'artista Alessandro Cavoli. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Ok. Ciao Alessandro. Un abbraccio, Federico, grazie. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.